622. Fave alla romana o dei morti. Queste pastine sogliono farsi per la commemorazione dei morti e tengono luogo della fava baggiana, ossia d'orto, che si usa in questa occasione cotta nell'acqua con l'osso di prosciutto. Tale usanza deve avere la sua radice nell'antichità più remota, poiché la fava si offeriva alle parche, a Plutone e a Proserpina ed era celebre per le cerimonie superstiziose nelle quali si usava. Gli antichi egizi si astenevano dal mangiarne, non la seminavano né la toccavano con le mani e i loro sacerdoti non osavano fissar lo sguardo sopra questo legume, stimandolo cosa immonda. Le fave, e soprattutto quelle nere, erano considerate come una funebre offerta, poiché credevasi che in esse si richiudessero le anime dei morti e che fossero somiglianti alle porte dell'inferno. Nelle feste lemurali si sputavano fave nere e si percuoteva nel tempo stesso un vaso di rame per cacciar via dalle case le ombre degli antenati, i lemuri e gli dèi dell'inferno. Festo pretende che sui fiori di questo legume siavi un segno lugubre e l'uso di offrire le fave ai morti fu una delle ragioni, a quanto si dice, per cui Pitagora ordinò ai suoi discepoli di astenersene. Un'altra ragione era per proibir loro di immischiarsi in affari di governo, facendosi con le fave lo scrutinio nelle elezioni. Varie sono le maniere di fare le fave dolci. Vi indicherò le seguenti. Le due prime ricette sono da famiglia, la terza è più fine. Prima ricetta. Farina grammi 200, zucchero grammi 100, mandorle dolci grammi 100, burro grammi 30, uova numero 1, odore di scorza di limone oppure di cannella o d'acqua di fior d'arancio. Seconda ricetta, mandorle dolci grammi 200, farina grammi 100, zucchero grammi 100, burro grammi 30, uova numero 1, odore come sopra. Terza ricetta, mandorle dolci grammi 200, zucchero a velo grammi 200, chiara ed uovo numero 2, odore di scorza di limone o d'altro. Per le due prime, sbucciate le mandorle e pestatele con lo zucchero alla grossezza di mezzo chicco di riso. Mettetele in mezzo alla farina insieme con gli altri ingredienti e formatene una pasta alquanto morbida con quel tanto di rosolio d'acqua vite che occorre. Poi riducetele a piccole pastine in forma di una grossa fava che risulteranno in numero di 60 o 70 per ogni ricetta. Disponetele in una teglia di rame unta prima col lardo o col burro e spolverizzata di farina. Doratele con l'uovo. Cuocetele al forno o al forno da campagna, osservando che, essendo piccole, cuociano presto. Per la terza, seccate le mandorle al sole o al fuoco e pestatele fini nel mortaio con le chiare d'uovo versate a poco per volta. Aggiungete per ultimo lo zucchero e, mescolando con una mano, impastatele. Dopo versate la pasta sulla spianatoia sopra un velo sottilissimo di farina per foggiarla a guisa di un bastone rotondo che dividerete in 40 parti o più per dar loro la forma di fave che cuocerete come le antecedenti.